2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati o benvenuti, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. In questa puntata ci occuperemo di negozi automatici di riconoscimento facciale e anche di sanità digitale. Come sempre iniziamo con alcune notizie che selezioniamo durante la settimana e condensiamo nelle nostre Digital News. Digital News. Il produttore di mappe e sistemi di navigazione TomTom, uno dei brand più famosi e noti in questo settore, sarà il fornitore di mappe per gli smartphone Huawei. La firma dell'accordo risale a qualche settimana fa o forse qualche mese fa, ma è stata resa nota questa settimana e fa parte delle mosse della cinese Huawei di trovare alternative alle app di Google. Visto che sui nuovi smartphone non può, non potrà installare la versione ufficiale di Android e anche le Google Apps, quindi le applicazioni di Google, e ovviamente tra le principali applicazioni di Google sugli smartphone Android c'è appunto Maps, le mappe. Attualmente siamo in regime di proroga per quanto riguarda il divieto a Google imposto dal governo americano di vendere a Huawei. Però ovviamente l'azienda cinese cerca di trovare alternative e sicuramente TomTom è una ottima alternativa. E questo anzi potrebbe dare ulteriori capitali per continuare ad investire in TomTom, azienda che sta bene in salute, ma insomma sicuramente questo è un accordo importante. Dunque parliamo della cinese Country Garden, che è il principale costruttore di immobili in Cina. Ha annunciato di volere iniziare una produzione di massa di robot per costruire case per, da un lato, tagliare i costi, ma anche rendere più sicuri i cantieri. Country Garden aveva annunciato nel 2018 di volere investire nei successivi 5 anni 2,3 miliardi di dollari ogni anno per lo sviluppo dei robot. La società sviluppa robotica anche per agricoltura e per ristoranti, visto che ha una catena di ristoranti che sono in parte automatizzati. La Volkswagen acquisterà il 20% della cinese Guangzhuan Hi-Tech, che è un produttore di batterie per auto elettriche. La Volkswagen continua a ripetere l'importanza di diventare leader nella produzione di auto elettriche e ovviamente in questo scenario è estremamente importante avere una sicurezza nell'approvvigionamento di batterie, che sono una parte fondamentale delle automobili elettriche, e ovviamente se produci le batterie dovresti avere anche il controllo sulla filiera delle materie prime per produrre batterie, e Volkswagen cerca ovviamente di fare questo, come dimostra di fare molto bene Tesla, che controlla tutta la filiera. Addirittura, a proposito di cose che vengono ripetute, questa settimana l'amministratore delegato di Volkswagen Dies ha detto che bisogna cambiare molto velocemente, e senza un cambiamento radicale l'azienda rischia di fare la fine della Nokia. Mi sembra molto chiaro, quindi i tedeschi stanno accelerando e stanno puntando su questo mercato. Dunque, venendo alle questioni italiane, allora sono in onda sui canali 100 e 200 del digitale terrestre i segnali video che permettono di fare il test per capire se il proprio televisore è compatibile con il nuovo sistema di trasmissione che andrà o dovrebbe andare a regime entro la metà del 2022. Vi avevamo annunciato questi canali di test, sono cartelli fissi che riportano una scritta HEVC Main 10, che è la tecnologia che dovrebbe essere introdotta con il nuovo standard. Per sintonizzarli, allora fate la risintonizzazione del vostro con il vostro televisore. Se il vostro TV riesce a visualizzare i canali, significa che questo apparecchio è compatibile con il nuovo formato, quindi non vi preoccupate di nulla e state sereni. Se invece il vostro televisore non riesce a sintonizzare il canale 100 e 200, potreste, non è detto, però potreste dover acquistare un decoder o cambiare il televisore. Allora, il nostro consiglio è di aspettare almeno settembre 2021 per prendere decisioni, visto che i broadcaster soprattutto la RAI, non sono chiarissimi sulle intenzioni che hanno per questo passaggio del 2022, aspettate, temporeggiate un po'. Certo, se avete un TV vecchio magari potrebbe essere un'occasione per fare un acquisto già quest'anno. Parliamo di intelligenza artificiale. Il CINI, che è il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica, attraverso il Laboratorio Nazionale di Intelligenza Artificiale, ha firmato un accordo con NVIDIA per sviluppare anche nel nostro paese ricerche in intelligenza artificiale e accelerarne l'adozione in Italia. Nei prossimi 3 anni è previsto un budget di 2 milioni di euro. Il primo polo italiano di NVIDIA Artificial Intelligence Technology Center verrà aperto all'Università di Modena. L'Osservatorio Blockchain Distributed Ledger della School of Management del Politecnico di Milano ha fatto il punto sull'adozione di queste tecnologie. Allora, nel 2019 sono state mappate in tutto il mondo 488 progetti, ma solo 47 sono operativi, il resto sono sperimentazioni o proposte, altri 330 sono solo annunci, quindi c'è solo il titolo e poco altro. In Italia le imprese sono ancora lontane da una piena consapevolezza, scrivono i ricercatori del Politecnico. Meno del 2% delle grandi aziende e meno dell'1% delle piccole e medie imprese ad oggi ha avviato progetti che in qualche modo riguardano la blockchain. E tutto ciò è giusto, è giustificato anche dal fatto che stiamo parlando di tecnologie estremamente complicate che richiedono competenze multidisciplinari che si trovano molto raramente, quindi le aziende faticano a trovare competenze, ci capiscono poco e quindi di fronte a ciò fanno poco. Ma la verità è che le applicazioni concrete della blockchain, almeno al momento, sono pochissime, molto molto molto molto poche, sono applicazioni di nicchia, mentre si tende a chiamare con il nome blockchain tutto un set di tecnologie che richiamano la blockchain, ma non sono blockchain. Tecnologie che riconosciamo, che conosciamo da anni, come la crittografia. Devo dire che purtroppo in questo settore moltissimi si sono lanciati anche con progetti che sono puro marketing, dove la parola blockchain viene buttata lì proprio per far vedere che si sta facendo una cosa che sembra innovativa, e questo non fa sicuramente bene al settore. Alcuni o molti dei negozi del futuro saranno automatici. Uno dei primi esempi è stato sviluppato dalla ICAM, dall'italiana ICAM, per la tedesca Wurt. Saluto Roberto Bianco, che è l'amministratore delegato di ICAM. Benvenuto 2024. Benvenuti a voi, grazie. Noi parliamo di automazione e voi operate nel campo dell'automazione. Siete un'azienda che è specializzata in automazione di che tipo? È un'azienda specializzata nell'automazione di magazzino. In particolare oggi siamo specializzati nel realizzare magazzini automatici verticali, quindi nello stoccaggio di light goods, quindi prodotti leggeri, prodotti piccoli, in modo molto compatto, con grande flessibilità nella capacità di stoccaggio. Automazione significa oggetto all'uomo, quindi l'uomo sta comodo e grazie al software movimenta le merci in stoccaggio e in prelievo. Voi vi siete affacciati da un po' in un nuovo settore, che è quello dell'automazione del, adesso la dico male, ma per farci capire, del negozio, del punto vendita. Poi vediamo e cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando. Il primo progetto che state, ormai avete concluso, comunque state realizzando, è con Wurt, che è un'azienda tedesca che vende accessori e materiali per l'edilizia, per la metalmeccanica, cacciavite, adesso io anche in questo caso semplifico, ma per farci capire, in decine di migliaia di prodotti diversi, giusto? Sì, perfetto. Per questa azienda voi che cosa avete realizzato? Allora, per questa azienda noi abbiamo realizzato quello che io ritengo sia praticamente il primo vero negozio automatico. L'azienda oggi è dotata di alcune migliaia di punti vendita in Europa, punti vendita a 600 metri quadri, e hanno la necessità di andare anche po' più in provincia, in posti dove si giustifica meno una struttura e un costo nel punto vendita di questo tipo. Cioè, stiamo parlando di punti vendita tradizionali. Tradizionali, con esatto. Con i commessi che scegli. Esatto, 600 metri quadri, 9.000 referenze, sì, a fronte di decine di migliaia di referenze che Wirt ha online. Andare in provincia, oltretutto Wirt sta spingendo moltissimo sulle soluzioni digitali, quindi sulla vendita dell'online. Andare in provincia significa trovare una soluzione con costi più bassi e questo ci ha fatti incontrare, diciamo così. Noi stavamo lavorando a questi negozi automatici e forse con Wirt stiamo affrontando forse il problema più complesso, perché siamo riusciti a soddisfare l'esigenza di mettere in un punto vendita automatico qualcosa come oltre 6.000 referenze. Prima cosa importante. Quindi 6.000 prodotti diversi. 6.000 prodotti diversi, o comunque prodotti, diciamo sono 1.500 prodotti diversi e 6.000 combinazioni anche di imballaggi diversi dei 1.500, quindi formati diversi. Sì, sì. Quindi la seconda cosa importante è che hanno prodotti molto diversi, quindi da prodotti veramente molto piccoli a prodotti parecchio grandi. Quindi, un cacciavite fino magari a un, che ne so, a un trapano, una scatola di un trapano importante. Ecco. Allora, questa flessibilità è una nostra capacità che abbiamo con... sviluppati in tanti anni di sistemi automatici per magazzino. Cioè, quindi, sull'esperienza che avete. Esatto, quindi a differenza di una vending machine, noi possiamo mettere all'interno dei nostri negozi automatici un oggetto veramente piccolo come un cacciavite e uno grande come un grosso aspirapolvere e cambiare il mix degli articoli al suo interno. Quindi questa sfida è stata veramente importante. Noi siamo riusciti a mettere oltre 6.000 referenze. In più, Wirt ha voluto che questa soluzione fosse outdoor, quindi esterna, e amovibile praticamente, quindi risparmia, tra virgolette, il costo dell'affitto dei locali, lo mette all'interno di uno spiazzale di un'area commerciale o di una zona industriale che è il suo target, diciamo così. E lo può spostare. E lo può spostare qualora non sia perfetto. Facciamo l'esempio di una persona che può essere un professionista, che ne so, un imbianchino, un idraulico, un meccanico che ha bisogno di pezzi. O magari potremmo anche immaginare chi è abituato al fai da te, che potrebbe aver bisogno di pezzi, va davanti a questo magazzino automatico, che poi in realtà è un negozio automatico, e qual è l'esperienza dell'utente? Allora, il cliente può accedere, può comprare in due modi. Può comprare acquistando dal cellulare online e quindi può mostrare poi l'operazione effettuata, pagamento effettuato sul sito della Wirt praticamente, può mostrare il QR code alla macchina che consegna tutti gli articoli. Oppure può fare l'acquisto direttamente su un grosso touch point che è direttamente presente sulla macchina. In questo modo può portare via subito la merce senza dover attendere, se acquista online, il tempo classico della consegna. Ma può fare anche di più. Può anche, grazie alla connessione degli API tra il nostro sistema, la piattaforma Wirt e in questo momento il Corriere Glovo, la possibilità di acquistare online, ad esempio dal suo ufficio, e girare il QR code a Glovo, che ritirerà e consegnerà direttamente al suo ufficio quello che ha acquistato, quindi senza neanche spostarti, nell'arco di pochi minuti. Certo, potremmo dire, sempre semplificando molto, che è una distributore automatico. Noi oggi siamo abituati al distributore automatico di snack, merendine, del caffè, delle bibite. Questa è una cosa che, diciamo, fa la stessa cosa ma in maniera più evoluta, con molti più prodotti all'interno. Perfetto. Cioè, una cosa, questo, ad esempio, questa macchina quanto è grande, giusto per avere un'idea? Allora, in questo caso, allora, le macchine possono essere da a piacere, da pochi metri di larghezza, sì, e di altezza, sino in questo caso, per essere amovibile, quindi poter essere trasportato su un camion, diciamo. E la versione più grande possibile è quella che abbiamo realizzato per Wirt, è un sta all'interno di un container da 45 piedi, quindi 13 metri. Quindi sta su un tir. Sta su un tir e contiene tutta questa roba. Voi vi immaginate che una parte dei negozi, perché abbiamo parlato di questo esempio che state realizzando, avete realizzato con Würth, che sarà operativo dalla prossima primavera estate, sì. Però il prodotto è fatto e finito. Immaginate che questa possa essere una delle evoluzioni del negozio del futuro, di un ibrido poi che sta tra il negozio fisico e la vendita online con la consegna a domicilio. Allora, noi siamo assolutamente convinti di questo. In certo senso la strada l'ha fatta la vending machine con la sua crescita esponenziale in tutti questi anni, ma con il grossissimo che ci ha abituati praticamente a poter acquistare H24 7 giorni su 7 quando vogliamo quello che vogliamo. Il limite della vending sono due fondamentalmente. Il primo è il sistema tecnico della vending impone che l'articolo che io posso vendere deve avere una forma e una dimensione molto ristretta, molto standard. Sì, invece noi possiamo metterci dentro roba di dimensioni e forme e package, quindi di imballaggio, anche molto diverse tra loro. Lo secondo svantaggio è che la vending machine ha una capacità molto limitata, cioè all'interno di una vending posso mettere poche decine di articoli in poche decine di quantità. Sì, sì. Invece io posso metterne anche migliaia e quindi parlo veramente di un negozio. Al tempo stesso il nostro sistema, il nostro buy box, diventa anche un punto di ultimo miglio, cioè è un sistema di storage, quindi di immagazzinamento, dove la merce, nel caso di Würth, uno va e la ritira perché già c'è, ma è anche un punto di cosiddetto ultimo miglio, cioè dove Würth consegna della merce che è stata comprata online e che non era fisicamente presente lì, e appena viene consegnata e caricata all'interno del negozio automatico, a qualsiasi ora può essere ritirata di conseguenza, perché appena ricevo una mail col QR code, ecco la merce che ti mancava, adesso la puoi trovare, vado lì e la ritiro. Quindi certo, è un po' una via di mezzo tra la vending come punto vendita automatico self H24 e il locker, che anche esso ha i suoi fortissimi limiti nelle forme dei contenitori, sì, nella capacità esatto, e nel numero. Sì, ecco, anche nelle dimensioni, esatto. Questo che è un negozio automatico si inserisce in quella cosa che ogni tanto sentiamo nominare, che si chiama omnicanalità. Non c'è forse e non ci sarà anche nei prossimi anni una forma di commercio che vincerà. Cioè, non è meglio il negozio fisico, non è meglio l'online, non è meglio questa forma ibrida, cioè ci sarà spazio per tante versioni e il consumatore sceglierà. Acquisto online, me lo faccio consegnare a casa perché mi è più comodo e magari voglio aspettare, oppure vado direttamente in un negozio tipo quello che voi state realizzando, oppure vado direttamente al punto vendita. Sì, perfetto. Allora, quella che si chiama crisi del retail, sì, in realtà altro non è che una grandissima evoluzione del retail, che qualcuno sta cavalcando e qualcuno invece sta soffrendo senza ancora capire qual è la sua posizione, diciamo così. Ha detto benissimo, ci sono infinite soluzioni. Fondamentalmente io vado online e cerco gli articoli. Vado nel negozio fisico, provo e verifico gli articoli. Poi lo compro magari online, oppure qualche volta lo trovo nel negozio fisico e lo ritiro nel negozio fisico perché lo provo anche lì. Tutto questo può essere combinato benissimo con queste soluzioni self. Perché? Perché posso comprarlo online e ritirarlo fisicamente lì? Perché magari è già lì. Perché non devo aspettare del tempo? Perché semplifico la logistica urbana ed evito la consegna uno a uno dell'ultimo miglio, che è il problema terribile del questa evoluzione dell'e-commerce. Ma posso acquistarlo immediatamente e prenderlo immediatamente, pagarlo immediatamente, e questo ad esempio si addice moltissimo a tantissimi articoli diversi. Questo si addice a tantissimi settori diversi, quindi noi stiamo cominciando ad avere richieste dai settori più disparati, dal prodotti per la casa, ma anche al settore del lusso, dell'abbigliamento, della farmacia, piuttosto che vino o prodotti alimentari per animali, eccetera. Perché il format in questo caso è non soltanto di un punto vendita esterno, ma può anche essere interno. Non è detto che sia completamente e necessariamente non servito, può anche essere servito. Immaginiamo un caso in cui all'interno di un classico negozio l'azienda decide di individuare alcuni prodotti che sono certi e di immediato acquisto, e ce ne sono altri che invece richiedono una consulenza del personale. Certo. Allora io primi entro, li metto nel magazzino automatico. Il primo li metto in questo sistema automatico, certo. E non faccio aspettare nessuno. Uno va lì, sceglie, paga, compra e va via e non fa la fila. Nel secondo caso invece può fare la fila. Quindi tutte le configurazioni sono possibili. Quanto tempo ci mette la macchina a darmi il prodotto? 30 allora, secondi, 20 secondi, 20, un minuto? 30 secondi circa per ogni oggetto che deve prelevare. Quindi se io voglio 50 oggetti diversi dovrò aspettare un po'. Allora, se io voglio 50 oggetti diversi, non è questo il sistema. Okay. Però diciamo quindi che non è questo il sistema che almeno nell'immediato andrà a sostituire, esatto, un supermercato. Il supermercato dove faccio la spesa. No, per il supermercato il sistema funziona in maniera diversa. Presso un punto, un punto vendita, un punto della GDO, arriva l'ordine, viene fatto il picking e invece di essere consegnato a casa viene consegnato all'interno di questo nostro, di questi grandi contenitori, dove differenziamo tra l'altro il secco dalla temperatura fresca a quella surgelata. In questo modo chi deve ritirare non deve ritirare all'interno di un range d'orario molto preciso, ma è libero di arrivare anche dopo molte ore, quando magari torna a casa dal lavoro, mostrare il suo QR code, aprire il cofano, prendere tutto, mettere nel cofano e andare via esattamente come un drive-in. Quindi questa è la soluzione per la spesa della GDO. Se allarghiamo il quadro all'automazione in generale, oggi quali sono i limiti maggiori contro i quali vi scontrate? La velocità delle macchine, ad esempio, o che cos'altro, non lo so. Allora, cioè dove oggi i sistemi automatici sono ancora un po', dove vorreste migliorare nei prossimi, ma dico voi, ma in generale insomma l'industria. Allora, noi oggi stiamo, rispetto ai sistemi diciamo precedentemente esistenti, con cui ci confrontiamo, che sono le vending da una parte e i locker dall'altra, stiamo facendo un salto enorme in termini di miglioramento, in termini sia di capacità, di flessibilità e quindi alla fine anche di costo di investimento in rapporto alle quantità delle merci immesse e stoccate, diciamo così. Quindi in realtà sta facendo un salto incredibile, non c'è nulla del genere oggi in giro. Cosa vogliamo migliorare ancora? Abbiamo delle cose che vogliamo migliorare e sappiamo anche come farlo. In particolare quello che saranno i nostri step per i prossimi anni è la tridimensionalità, diciamo, del nostro sistema automatico, che oggi tendenzialmente ha uno sviluppo di tipo bidimensionale, cioè va in altezza e larghezza ma non in profondità, noi vogliamo che vada nella tridimensionalità, cioè che possa adattarsi veramente a tutti i locali, a tutti i negozi, a tutte le situazioni possibili, ecco. E sappiamo anche come raggiungere questo tipo di obiettivo nei prossimi anni. La nostra azienda si caratterizza per essere estremamente innovativa, per brevetti depositati, per ricerca fatta che mediamente si avvicina al 10% dei nostri ricavi, e questa è la direzione, così continueremo ancora. Faccio una domanda su hardware e software. Questi sistemi devono migliorare sul lato software o sul lato hardware, o la difficoltà maggiore dove sta? Sul software che fa funzionare le macchine o sulle macchine in sé? Bella domanda. Allora, sul lato hardware sempre noi miglioreremo, per le esigenze che ho detto prima, ma per una serie di altre feature, quindi caratteristiche delle macchine. Quindi è un work in progress continuo. Sicuramente sul lato software, sia dal nostro punto di vista, sia, e questa è una sfida importante nel caso dei negozi automatici, nell'integrazione tra i nostri sistemi e quelli dei brand, nel caso del retail. Il brand deve integrare questo sistema e deve diventare un suo punto vendita, in certo senso, visibile sulla rete o nell'online. Cioè io vendo qualcosa online, ho la possibilità, dopo che ho acquistato tutto, di poter vedere quello che sta nel mio punto vendita automatico, ICAM lì vicino a me o un po' più lontano, scegliere da dove prenderlo in funzione delle scorte, eccetera, eccetera. Quindi, ecco, questi aspetti, oltre che l'usability, quindi praticamente la user experience, la possibilità che un utente, non soltanto l'utente di Viewrt, che è un utente B, un utente professional, diciamo così, ma anche l'utente finale qualsiasi, quindi il consumatore finale. Infatti sempre di più i nostri sistemi si troveranno in giro come una vending machine ad uso anche di un ragazzino qualsiasi, ecco. Quindi questo è un aspetto sicuramente molto importante. Bene, grazie di essere stato con noi, a presto, buon lavoro. Grazie a voi. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini. Se volete comunicare con noi scrivetemi a 2024, scritto in cifra, 2024 e radio24.it, oppure potete scegliere Facebook, LinkedIn o Twitter. Vi ricordo che tutte le nostre puntate, quindi anche questa puntata, è disponibile nel nostro sito internet radio24.it oppure attraverso la nostra applicazione per smartphone iOS o Android o le principali piattaforme audio, il nostro super podcast con tutte le nostre interviste in edizione integrale. Adesso ci occupiamo di digitalizzazione dei processi nel settore sanitario. Allora, nel mondo della sanità sta succedendo di tutto, ma non solo nella sanità, ma recentemente abbiamo commentato alcune notizie che riguardano questo settore. In questa puntata l'esempio di Epicura. Gianluca Manitto, l'amministratore delegato e uno dei fondatori della società. Benvenuto a 2024. Grazie. Voi siete una piattaforma per erogare servizi sanitari online o anche offline, perché uno può anche utilizzare il telefono, poi lo vediamo. Che cosa fa Epicura? Epicura è il primo poliambulatorio digitale in Italia, quindi ci occupiamo, come hai ben detto, di servizi sanitari e socioassistenziali con un grosso focus sul domicilio. Utilizziamo la tecnologia per rendere più accessibile e migliore il processo e l'esperienza dell'utente che si ritrova ad avere problemi di salute, quindi necessità di prenotare determinati servizi. Quindi io mi rivolgo a voi o online oppure anche telefonando, però diciamo che il focus è sulla vostra offerta, la vostra piattaforma digitale. Mi rivolgo a voi e voi avete creato un sistema tale per cui mi mandate un medico nel giro di poco tempo. Quindi esatto, è una sorta di poliambulatorio che a domicilio, no? Esattamente, quindi utilizziamo appunto una piattaforma digitale prodotta internamente per abbattere completamente le liste di attesa. Ad oggi forniamo una dozzina di servizi, fisioterapia, osteopatia, tutta una parte molto importante di assistenza ad anziani malati disabili, visite mediche, anche veterinarie a domicilio, e grazie alla nostra piattaforma tecnologica abbiamo un modello di prenotazione che ci permette di erogare tutti questi servizi entro un massimo 24 ore, 7 giorni su 7. E qual è il, diciamo, per raggiungere questo obiettivo serve, immagino, certo, tecnologia, ma anche molti medici. Assolutamente sì. Oggi... Però non troppi medici, perché se avete troppi medici poi il sistema è inefficiente. Assolutamente sì, il bilanciamento, hai detto bene, è assolutamente importante. Noi oggi siamo attivi su 10 città italiane, diciamo le 10 principali, e collaboriamo con oltre 700 medici. E ecco, entriamo un po' nello specifico di questo sistema digitale che vi permette di azzerare insomma, diminuire molto le liste d'attesa. Sostanzialmente abbiamo costruito una tecnologia che automatizza tutti i processi ridondanti, mantenendo il focus solo nei due punti più importanti a nostro avviso, che sono la selezione del personale medico. La qualità è uno dei nostri punti di forza, quindi è apprezzato anche dai nostri pazienti. Quindi selezioniamo e certifichiamo tutti i professionisti medici e sanitari con cui collaboriamo. E quello lo fate a mano? E quello assolutamente sì, cioè okay. I colloqui li facciamo, insomma, o di persona, sì, comunque utilizzando il digitale, ma abbiamo un contatto diretto con i professionisti sanitari. Dall'altra parte abbiamo deciso di mantenere oltre a un sistema di prenotazione digitale, diciamo al supporto di questo sistema di prenotazione, un numero di telefono, un numero verde gratuito, sempre attivo, in cui è possibile richiedere informazioni e prenotare proprio come si può fare sul digitale. Questo perché crediamo che il settore della salute, sia oggi e anche per gli anni a venire, manterrà l'importanza, diciamo, del contatto umano. Quindi rispetto ad altri settori che possono essere completamente digitalizzati, quello della salute, soprattutto quello dell'assistenza agli anziani, è fondamentale che abbia ancora una presenza umana. Voi dite abbiamo un modello alla Uber per ottimizzare tutto, cioè? Sostanzialmente abbiamo un modello di prenotazione inverso. Noi riceviamo la richiesta del paziente, che non indica il tipo e quale professionista sceglie, quindi quale professionista verrà a prendersi cura di lui, ma indica noi il luogo della città dove preferisce o ha bisogno di ricevere l'intervento, il giorno e la fascia oraria preferita. Questa, grazie al digitale, questa richiesta viene mandata a tutti i medici che hanno dato disponibilità in quella fascia oraria, in quella zona della città. Immediatamente il primo disponibile applicherà e si candiderà per prendere in carico la richiesta, e questo sostanzialmente ci permette di dare una risposta immediata agli utenti ed abbattere, come dicevo prima, la lista di attesa. Scusa se semplifico troppo, ma voi siete una piattaforma di allocazione di professionisti o una piattaforma un po' come io ho bisogno di un albergo, vado su un sito per prenotare un albergo, poi mi gestisco io il rapporto poi con l'hotel? Il concetto è questo. Quello che abbiamo in più rispetto alle classiche piattaforme digitali è che noi gestiamo tutto il processo e il percorso di cura del paziente, quindi siamo in grado, ci comportiamo proprio come fa un poliambulatorio, quindi siamo in grado per esempio di comporre dei piani assistenziali. Molte delle richieste che ci arrivano, soprattutto in ambito di assistenza anziani, sono di famiglie che hanno bisogno di dell'assistenza per i genitori, ma anche di interventi infermieristici e spesso di trattamenti fisioterapici piuttosto che di visite mediche. Con il nostro modello abbiamo la possibilità, avendo un pool di professionisti disponibili, di comporre appunto piani assistenziali. Quindi mettiamo insieme più assistenti, infermieri che passano su turni prestabiliti e fisioterapisti che fanno un passaggio, due passaggi a settimana. Questa è la vera differenza con la classica piattaforma digitale, che lascia un pochettino la gestione dell'operatività alla struttura alberghiera piuttosto che al ristorante. Sono tutti assunti da voi? No, sono tutti in collaborazione occasionale, sono tutti selezionati da noi, ma collaborano con noi, ma fanno anche altri lavori, quindi sostanzialmente sono professionisti, sono liberi professionisti che decidono di dedicare del tempo per prendere in carico dei nostri pazienti. Dunque, 10 città, quanti sono i medici, infermieri, cioè i professionisti che lavorano con voi? Oggi sono oltre 700 in tutta Italia. E gli ambiti medici nei quali voi operate quali sono? Non tutti, cioè è abbastanza limitato il mondo, giusto? Al momento sì, eroghiamo una dozzina di servizi, quindi tutta una parte fisica di fisioterapisti, osteopati e massaggiatori terapeutici, visite mediche, visite pediatriche, veterinari a domicilio. Abbiamo un servizio di supporto psicologico e psicoterapia, che è possibile anche, diciamo, svolgere tramite videoconsulto. E poi, diciamo, uno dei nostri core business è sicuramente quello dell'assistenza ad anziani malati disabili, quindi ci occupiamo di assistenza domiciliare, interventi infermieristici. L'assistenza la facciamo sia durante il giorno che durante la notte, ed eroghiamo anche assistenza nelle strutture, nelle cliniche private e negli ospedali. Sì. Voi avete di fatto digitalizzato processi che già esistevano, che già esistono, giusto? Esattamente, sì. Quello che dico sempre è che non ci siamo inventati un servizio, ma abbiamo e stiamo efficientando e rendendo migliore l'esperienza degli utenti di un settore che ad oggi è abbastanza arretrato. Benissimo. I vantaggi principali della digitalizzazione di questi processi quali sono? Efficienza, fate margini più alti, i medici guadagnano di più, i pazienti poi beneficiano di una serie di questi vantaggi. Quali sono i vantaggi principali? Sicuramente la tempestività di intervento è il nostro punto di forza. Come dicevo, 7 giorni su 7, garantito entro 24 ore, molto spesso anche in giornata, in tutta la città e in tutta anche l'area metropolitana intorno alla città. La flessibilità è un altro dei punti di forza su cui possiamo giocare grazie appunto al digitale, quindi è il paziente che sceglie il luogo dove ricevere l'intervento e soprattutto la fascia oraria e il giorno, non siamo noi che imponiamo un'agenda di slot liberi, quindi non è il paziente che deve prendere 2 ore di permesso da lavoro per andare dal medico, ma siamo noi che eroghiamo il servizio alle 8 di sera per andare incontro alle sue esigenze. Quindi sicuramente tempestività e flessibilità sono i due punti chiave del nostro servizio. Questo processo è automatico? È assolutamente automatico, certo. Abbiamo una piattaforma digitale, insomma, tecnologica, sviluppata internamente, che automatizza tutti questi processi. Benissimo. E quindi per estendere tutto ciò basta, diciamo, assoldare, cioè trovare medici in altre città e magari anche all'estero. Esattamente, sì. L'idea non è semplice, perché chiaramente da fuori sembra semplice, poi internamente siamo un team oggi che ogni giorno sono 20 persone che lavorano su tutto questo sistema, però sostanzialmente il grosso è costruire la rete di medici fidelizzati, valutati, certificati nelle città, e poi portare il nostro servizio a conoscenza delle persone per farlo utilizzare. Senti, recentemente c'è un gruppo di venture capital che ha dato più di 150 milioni a una società svedese che fa videoconsulti. Assolutamente sì, la conosco. Cosa sta succedendo? Cioè, perché mi sono un po' così fatto un po' di domande, ho detto: ma c'è così tanto business? Ma allora, sicuramente quello della sanità digitale è un mercato che interessa. È un mercato enorme. In Italia, solo in Italia vale 40 miliardi all'anno, e in Europa, sia in Italia che in Europa, sta crescendo esponenzialmente. Quindi è chiaro che ci siano tanti investitori interessati a cavalcare quest'onda. I numeri che si registrano in città europee, in stati europei diversi dall'Italia, sono sicuramente più alti, quindi in Italia raccogliere quelle cifre è decisamente più difficile, specialmente in tempi ridotti come ha fatto la società che dicevi prima. Il tema dei videoconsulti e dei teleconsulti però è sicuramente interessante, quindi c'è un po' questo gap al momento in cui è difficile avere accesso e parlare con un medico in tempi brevi. Ci sono società in giro per il mondo che si stanno attrezzando, noi lo stiamo facendo in Italia con Epicura, quindi abbiamo lanciato anche noi nel mese di dicembre il nostro servizio di consulenze telefoniche e videoconsulti, in cui è possibile con una piccola cifra, oggi costano 20 euro, parlare nel giro di un'ora con uno qualsiasi dei nostri professionisti. L'idea è che siano molto utili per tutti quei casi in cui si voglia una seconda opinione, un parere veloce, in una casistica in cui è evidente che non ci sia particolare urgenza o necessità di recarsi al pronto soccorso, di avere una visita immediata, ma che comunque non ci lascia tranquilli, e che quei casi in cui spesso andiamo a digitare a casa online cercando una risposta in qualche forum, in cui spesso incappiamo in valutazioni o risposte sbagliate da parte di utenti, ecco, l'idea di poter parlare entro mezz'ora con un medico, con un fisioterapista o con un veterinario, se è il nostro amico a quattro zampe che ha un problema, è sicuramente interessante. La differenza che noi vogliamo portare in questo settore è che, a mio avviso, dare un servizio di teleconsulto senza poi avere la possibilità di prenotare una visita medica è un pochettino limitante. Ecco, noi invece l'abbiamo inserito proprio come punto d'ingresso. L'idea è che l'utente abbia la possibilità di parlare con un professionista, ma all'occorrenza abbia poi tutta una serie di servizi che può direttamente prenotare sulla piattaforma. Senti, quello che fate voi potreste farlo anche per altri settori? Che ne so, per l'idraulico, l'elettricista? Perché anche lì ci sono delle piattaforme che mi mettono in contatto. Certo. Però si limitano a trovarmi l'idraulico, se va bene. Si potrebbe fare anche con altri servizi. Ci sono delle start-up e delle società, alcune più giovani, altre meno, in Italia, che si occupano di questo. Diciamo che la nostra idea, la nostra scelta è quella di focalizzarci su servizi dedicati alla famiglia in ambito sanitario assistenziale. Quindi per adesso ci occuperemo solo di servizi medici, benessere, preventivi e socioassistenziali. Gianluca, grazie per essere stato con noi. A presto. Grazie a voi. Adesso abbiamo un'altra pausa, questa è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, tra poco parleremo di sistemi di riconoscimento facciale. Ci siamo abituati ormai su molti smartphone, o comunque ne sentiamo spesso parlare o vediamo altre persone che utilizzano questi sistemi, ma in alcune parti del mondo, negli Stati Uniti in modo particolare, un po' meno in Europa, anche se tra poco parleremo appunto della posizione europea, se ne sta parlando anche da noi. Dicevo, negli Stati Uniti in modo particolare c'è un dibattito molto acceso perché più di una persona, più di un'associazione ha lanciato un allarme sull'utilizzo di questi sistemi. Ne parliamo tra poco. Siamo in onda tutte le settimane il venerdì tra le 22 e le 23, domenica in replica alle 13.10 e come sempre trovate la nostra puntata disponibile online sul nostro sito internet o attraverso la nostra applicazione o sulle principali piattaforme audio, a partire da Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, eccetera, eccetera, Podcast Addict, insomma la lista è abbastanza lunga e variegata. Adesso ci occupiamo di riconoscimento facciale. L'uso di sistemi di riconoscimento facciale, prevalentemente per ragioni di sicurezza o di marketing, sta crescendo in tutto il mondo e quasi ovunque c'è un dibattito, in alcune parti del mondo più acceso rispetto ad altre, sulla accuratezza di questi sistemi e sulla invasività di questi sistemi. Alcune città americane, San Francisco su tutte, ne hanno vietato l'uso, almeno in luoghi pubblici, e a Washington, al Congresso degli Stati Uniti, si sta lavorando ad un progetto per cercare di limitare il loro utilizzo in tutti gli Stati Uniti. Veniamo all'Europa. Allora, nonostante le leggi sulla tutela della privacy europee, lo sappiamo, siano già oggi fra le più restrittive del mondo, anche la Commissione europea starebbe pensando ad un progetto e potrebbe proporre presto, nel mese di febbraio, un divieto specifico di queste tecnologie. Secondo una bozza di un documento che è stato visionato e anticipato questa settimana dalla Reuters e da politico.com, la Commissione starebbe considerando di mettere al bando il riconoscimento facciale nei luoghi pubblici in tutta l'Unione Europea per 3 o 5 anni, o almeno finché non verrà elaborata una regolamentazione specifica. Ovviamente eccezioni a questo divieto potrebbero essere fatte per progetti di sicurezza o in generale per ragioni di sicurezza per lo sviluppo di questa tecnologia, per anche ricerca in questo ambito. Tutto questo dossier è collegato e andrà coordinato con il lavoro che si sta facendo a livello europeo per l'intelligenza artificiale, perché quando parliamo di riconoscimento facciale parliamo di sistemi di videocamere che hanno una parte ottica per catturare l'immagine, ma poi l'elaborazione e il vero riconoscimento del volto, il confronto tra i volti, tra quelli che sono catalogati, archiviati in un database e quelli che passano davanti alla videocamera, viene fatto da sistemi di intelligenza artificiale. E sono questi sistemi che a volte vengono messi sotto accusa perché non sempre sono precisi, e allora quando incappano in errori, possono esserci dei problemi molto seri. E poi c'è tutto il tema legato alla archiviazione e alla gestione di queste immagini e l'uso che le aziende, soprattutto in ambito di marketing, potrebbero fare. Alcuni di voi si chiederanno: ma allora se l'Unione Europea vieterà, poi vedremo, perché bisognerà aspettare un po' di tempo dall'annuncio di questa bozza, inizierà poi una sorta di dibattito a livello europeo, verranno chiamati in consultazioni esperti, aziende, ricercatori, associazioni per i diritti, eccetera, eccetera, e poi bisognerà poi fare questa legge, questa regolamentazione, vedremo poi se sarà una direttiva, un regolamento o qualcos'altro, e potrebbe arrivare da qui ad un anno, grosso modo. Comunque, dicevo, se l'Unione Europea vieterà questo l'uso in ambito pubblico, che cosa succederà ad esempio a sistemi come quello che abbiamo sul telefonino? Non cambierà nulla. Prevalentemente, beh, prima di tutto perché non siamo in ambito pubblico, siamo noi e lo smartphone, ma secondo perché c'è molta differenza tra quello che accade sul nostro telefonino, dove i dati rimangono residenti sullo smartphone, quindi non vanno online, e invece questi sistemi che sono connessi in rete, per cui ci sono dei database che vengono consultati. Di questo ho parlato anche con Vincenzo Tiani, che è esperto di politiche digitali a Bruxelles e collabora con il Centro Hermes per la trasparenza e i diritti digitali. Quali sono i problemi del riconoscimento facciale? È che ovviamente il nostro viso è sempre esposto al pubblico. Il fatto che siamo esposti a numerose telecamere, telefoni, telecamere di sorveglianza, insomma diversi dispositivi video, ovviamente ci tutela meno dal non voler essere, diciamo, individuati. Mentre ad esempio per un'impronta digitale siamo noi che scegliamo di porre il nostro dito sul telefono. Sì, sì, diciamo che con l'impronta digitale abbiamo scelto questi due che, come dire, sono i più diffusi perché vengono utilizzati sugli smartphone. Poi di sistemi di riconoscimento biometrico ce ne sono tantissimi, anche i più sofisticati e avveniristici, sistemi che riescono a capire come noi ci muoviamo nello spazio, come camminiamo, e anche quello è un sistema di riconoscimento biometrico. Ma i più diffusi e più noti sono questi: il riconoscimento dell'impronta, che da tanti anni ormai esiste non solo sullo smartphone, e il riconoscimento facciale, che grazie a videocamere sempre più precise, grazie a sistemi di intelligenza artificiale, e di questo parleremo, sono sempre più bravi, poi alcuni potrebbero dire non bravissimi, poi anche di questo parliamo, a riconoscere le facce delle persone. Però già questa è una differenza importante, cioè l'impronta noi volontariamente la mettiamo su un lettore, la faccia non dobbiamo far nulla, che è anche parte delle comodità. C'è una cosa interessante, prima parlavamo di questo tema e tu mi facevi notare che il design dei prodotti in qualche modo incentiva l'utilizzo di questi sistemi. Sì, per fare un esempio, molti dei nuovi cellulari, quindi manca proprio il pulsante tondo che fisico, ha, il pulsante sì, fisico, quindi dove per inserire l'impronta. Sono scelte di design. Non sempre si pensa anche alle possibili conseguenze. Qual è in questo caso la conseguenza? Che nel caso di questa scelta, ovviamente l'unico mezzo per il riconoscimento biometrico è quello del riconoscimento facciale. Quindi riconoscimento facciale o PIN. Altri telefoni invece hanno, ad esempio, possono utilizzare il riconoscimento dell'impronta direttamente sullo schermo. Sono meno precisi, però anche quella è una scelta di design. Quello sono anche, diciamo, alla luce del dibattito, diciamo, che non è solo presente in Europa, ma anche negli Stati Uniti e in Cina, diciamo, che sappiamo abbiamo qualche problemino con, diciamo, il riconoscimento facciale. In Cina non so quanto dibattito ci sia, sì, comunque beh, magari non pubblico, chiaramente, però la scelta, diciamo, dei produttori di device senz'altro ha delle conseguenze, anche per l'effetto di, diciamo, per cui ci abituiamo a un certo tipo di tecnologia. Certo, diventa normale utilizzare quella tecnologia. In effetti questo è interessante, cioè noi che abbiamo lo smartphone, e ci sono ricerche che ci dicono che lo apriamo, nel senso che lo sblocchiamo decine se non centinaia di volte al giorno, stiamo parlando quindi di un'azione, se è fatta con riconoscimento facciale, che per decine o centinaia di volte al giorno ci abitua a questo sistema. Perché bisognerebbe affrontare questo tema del riconoscimento facciale con meno superficialità rispetto a quello che sta succedendo? Perché molto spesso noi commentiamo notizie dicendo è stata implementata questa soluzione di riconoscimento facciale, e la accogliamo a volte, una notizia del genere, con grande entusiasmo, dicendo ah che bello, pensa, con riconoscimento facciale una cosa. Ecco, non stiamo dicendo che queste cose sono sbagliate, stiamo dicendo però che è importante essere consapevoli di quello che sta succedendo e di quello che potrebbe succedere. Sì, innanzitutto bisogna fare, diciamo, il riconoscimento facciale non è uno, bisogna capire quali sono le sue poi applicazioni concrete. Siamo d'accordo a utilizzare il riconoscimento facciale diciamo, sul telefono, per sbloccare il telefono, sapendo che la nostra immagine rimane sul telefono, non è inviata né al produttore del telefono, né a software terzi, né a motori di ricerca, né a agenzie di marketing, ma è criptata e quindi dovrebbero hackerarmi il telefono per poterla ottenere. Beh, io direi sì, posso essere a favore. Se invece, il caso contrario, dove invece queste garanzie non ci fossero, in cui si dice, bene, tu è vero che puoi usare questa, diciamo, puoi sbloccare il telefono con la faccia, ma la tua immagine verrà usata, diciamo, combinata con tanti altri dati sono, sì. Per cui sostanzialmente verrà, non so, ad esempio, utilizzata dai negozi che appena ti vedono cominceranno a mandarti pubblicità. Ecco, in quel caso io personalmente direi no, ma penso che anche l'utente, diciamo, non esperto, diciamo, comune, potrebbe avere delle remore. Altra cosa che su cui bisogna informare i cittadini è cosa succede con queste immagini. Abbiamo concluso per questa settimana, questo è sicuramente un tema su cui torneremo, un tema importante, anche perché l'Unione Europea, la Commissione Europea in particolare, si pronuncerà, quindi divulgherà questo documento, si presume a febbraio o al massimo a marzo, quindi sarà un'occasione per tornare su questo tema. Scriveteci magari la vostra opinione su quello che bisognerebbe fare, perché effettivamente a volte si tende a dar ragione a quelli che dicono no, c'è troppa privacy, ma i problemi legati alla diffusione dei nostri dati sono problemi molto seri. E da un lato è giusta la regolamentazione, la responsabilizzazione delle aziende che gestiscono i nostri dati, e penso che su questo bisogna fare ancora molto, magari con punizioni anche più severe rispetto a quelle che abbiamo visto fino ad oggi. E certo però che bisognerebbe anche sgravare i consumatori rispetto a tutta una serie di ok, accetto, che dobbiamo tutti i giorni eseguire. Grazie come sempre per la vostra attenzione, grazie a tutti coloro che ci scrivono e grazie a tutti coloro che ci fanno pubblicità per il nostro podcast. Ci risentiamo la prossima settimana.